24 mattino. Rieccoci in onda, Luca Telese, e non immaginavamo neanche che il solo evocare la doccia di Cecilia Rodriguez avrebbe suscitato un'ira di Dio, di commenti, vostri messaggi, un grande pronunciamento che a questo punto, anche sfidando chi dice state facendo spazzatura, merita di essere citato. Allora, un primo messaggio, la conosco l'argomento, ma la doccia con la Rodriguez la farei volentieri. Due, molto ironico, lo scandalo è sapere che la Rodriguez è VIP, non la doccia. Poi tre, il Moige che ha parlato qui da noi con la sua esponente poco fa, sono quattro bigotti totalmente irrilevanti. Alex, buongiorno, una critica molto dura, doveva farla nuda la doccia. Che bene, grazie della notizia di Cecilia, un altro messaggio, ora me la cerco e me la godo. Aspettate, un altro messaggio ancora, leggiamone anche un altro mentre corre il mitico Joe Cocker, viva la Rodriguez. E un altro messaggio ancora, e buongiorno Luca, no, questo l'avevamo già letto. E niente, è interessante sapere che il paese è sveglio di mattina e pensa a lei. Allora, il nostro Guido in regia ha detto che quella è la vera TV educativa. Cambiamo passo e andiamo alle cose serie. Catalogna. Me li ricordo ancora gli applausi. Me li sento ancora nelle orecchie e me li porterò dietro per tutta la vita. Mi ricordo una sera, levai l'accappatoio e cascò il mondo. Me l'ho scordato i calzoncini. Mi ricordo tutti i KO, tutti i ganci, tutti i jab. È il sistema prigione per fare una bella cura dimagrante. La mia non è stata una vita squallida. E mi farebbe piacere sentirmi applaudire quando recita come fate con Laurence Olivier quando recita Shakespeare. Ma io non sono Olivier, anche se mi farebbe piacere. E poi lo vorrei vedere sul quadrato recitare se con Sugar si misurasse chissà quante ne pigliasse. Per cui datemi un'arena già che il toro si scatena. Perché oltre al pugilato sono attore raffinato. Questo è spettacolo. Era la voce che è entrata dalla storia, la voce di Jack LaMotta interpretato nel mitico film di Scorsese da Robert De Niro. Era giusto tributarlo questo omaggio perché ci racconta Leonardo Cohen sul Fatto a pagina 21 con un bellissimo ritratto, devo dire, che a 96 anni è morto toro scatenato, è morto lui, Jack LaMotta, il kamikaze del ring che ispirò Scorsese. È morto scatenato, Reagan Bull, detto pure toro del Bronx, cioè no, è morto il grande pugile Jack LaMotta, scrive Leonardo Cohen sul Fatto, che per tutti noi ha infatti il volto immortale di Robert De Niro, massacrato di pugni da Sugar Robinson, gronda sangue come i tori della corrida, una maschera rossa stravolta dal dolore, la brutalità del match, il disperato kamikaze del ring e lo spietato poster dello sport che continuiamo a chiamare nobile arte. Per chiunque ami e odi il pugilato, in ogni caso, per chiunque ami la letteratura e la storia, questo è un racconto. Allora, vi dicevo della Catalogna, non la Catalogna di Orwell, omaggio alla Catalogna, ma la Catalogna che si separa dal Corriere della Sera, l'apertura di tutti i giornali. Spagna, la guerra catalana, Repubblica, Madrid punisce la Catalogna, il Corriere della Sera, e io qui comincio con Andrea Nicastro, l'inviato del Corriere, che ha fatto gli straordinari. Prima l'intervista a pagina 3, il ministro Romeva, siamo folli? Sì, siamo folli, ma non ci arrenderemo, possono anche incarcerarci tutti, noi voteremo per l'indipendenza. Sì, perché il nodo è questo, sono stati arrestati dal governo centrale di Madrid coloro, i funzionari della regione catalana, dello Stato catalano, dicono loro, che stavano organizzando la consultazione. Annunciato a giugno del 2017, il referendum vincolante senza quorum è previsto, ma dovremmo dire era previsto, per il 1 ottobre. Arresti e perquisizioni, il Corriere della Sera, sempre Nicastro, nell'altra pagina, retata a Barcellona, il governo spagnolo, fermate quel voto. Il fronte anti-Madrid, attacco alla democrazia, Rajoy, il premier spagnolo in televisione. È una consultazione illegale, come racconta Nicastro, non si farà. Poi, ripeto, il fogliettone di Cazzullo che citavamo con Cazzullo prima, da franchismo oggi, l'infinito classico, oggi è uno scontro fra curve e caste. Già, perché forse non lo sapete, ma ce lo ricorda sempre il Corriere della Sera, il Barcellona si è schierato per l'indipendenza, sia con la dichiarazione del suo capitano Piqué, sia con il suo tifo che ogni volta allo scadere del minuto 17:14, quindi il minuto che 17 minuto 14esimo secondo che ricorda la data dell'indipendenza, scandisce un coro. E dicevo, la presa di posizione del club è forse la notizia più curiosa, però più importante, anche per capire come un fenomeno di costume sia diventato così importante. Allora, per chi vuole approfondire questo schieramento inconsueto, il Barcellona, su Repubblica, pagina 4, c'è il bellissimo pezzo di Maurizio Crosetti, l'intervista a favore dell'autodeterminazione, che spiega perché il Barcellona è in campo a difesa dei catalani. Allora, tutto da leggere, perché questa vicenda spagnola ovviamente ci ricorda anche l'Italia. Fra l'altro, abbiamo un referendum che incombe anche qui nelle regioni del nord, come sapete, Veneto, Lombardia. Allora, cambio di passo e andiamo invece a parlare di quello che sta accadendo in Italia. C'è proprio una vera e propria bufera mediatica su Di Maio, ma questa è la politica, ragazzi. Come è diventato candidato premier, è entrato nel mirino dei media. Allora, pezzo sfottente di Selvaggia Lucarelli sul Fatto, lo sto citando, ora mi arriveranno 100.000 messaggi, sei di regime, sei attacchi 5 stelle, leggo quello che c'è, però domani leggeremo le cose su Renzi o su chiunque altro. Allora, Di Maio, i baci di Di Maio, è un pezzo ironico. Di Maio casca sull'ultimo bacio, operazione San Gennaro, scrive Selvaggia, come limonare consensi. I baci raccontano un sacco di cose in politica, e per ogni politico che si rispetti ce n'è sempre uno, il bacio. E allora, bella la rassegna. Berlusconi fu quello indimenticabile all'anello di Gheddafi, per Renzi Carmelita smack con la D'Urso, per Letta il baciamano la chienga in aula, per Salvini quello di Lei Savardi, ma un altro, e ora quello di Luigi Di Maio all'ampolla con il sangue di San Gennaro. Fantastico. Allora, a Bagheria succede qualcosa, è stato arrestato un sindaco, e leggo, costretto a un'ordinanza restrittiva per un'indagine su corruzione, un sindaco e obbligo di firma, e ovviamente c'è polemica, così poco dal voto, Patrizio 5, sto leggendo Giuseppe Alberto Falci sul Corriere della Sera, 32 anni, è stato sottoposto all'obbligo di firma perché è indagato nell'ambito di un'inchiesta sulla gestione dei rifiuti. È l'ennesima tegola siciliana che si abbatte sul Movimento 5 Stelle dopo la sentenza del Tribunale di Palermo, che ha colto il ricorso di un attivista sospendendo l'esito delle regionarie che hanno cancellato l'incoronazione di Giancarlo Cancelleri. Un'altra bufera, ora a 46 giorni dalla tornata elettorale dell'isola, questa volta giunge a Bagheria, cittadina a pochi chilometri dal capoluogo dell'isola, guidata dai pentastellati fin dal 2014. Attorno all'ora di pranzo si diffonde la notizia, scrive Falci sul Corriere della Sera, che Patrizio 5, primo cittadino molto vicino a Cancelleri, risulta essere indagato in un'inchiesta della procura di Termini Imerese. Le ipotesi di reato a carico del primo cittadino sono rivelazioni di segreto d'ufficio, abuso d'ufficio, omissione di atti d'ufficio e turbativa d'asta. Una inchiesta che farà discutere, creerà polemica, perché ovviamente pone il problema della buona o della cattiva amministrazione. Ma era questo il momento per mandare questo messaggio da parte della magistratura? Hai posto il lardo la sentenza. Spot più meteo. State ascoltando un programma offerto da Centro Software, l'ERP italiano già pronto per Industry 4.0. Mattino. Money, il denaro non dorme mai, e cominciamo sempre lo sfoglio economico con la grande notizia che domina l'apertura del Sole 24 Ore: acciaio. Tata ThyssenKrupp creano il secondo polo dell'acciaio dell'Unione Europea. Il nuovo big si divide il mercato con Mittal. Allora, è importante questa notizia perché forse saprete, sicuramente saprete, mentre vado al pezzo di Sissi Bellomo, che è l'apertura di pagina 3 del Sole 24 Ore, che la ThyssenKrupp possiede anche importanti stabilimenti in Italia, in Umbria, in Piemonte, e quindi è una storia che riguarda anche noi. Allora, il fondo di Giuseppe Berta, anzi l'analisi, il corsivo, ci spiega che sono due giganti europei con l'occhio alla Cina. E perché? Semplice, perché insieme, pensate, questi due gruppi da soli contano la metà della produzione europea dell'acciaio. Ciò pone nelle loro mani una rilevante capacità di influire sulla dinamica dei prezzi. Davanti a un processo di consolidamento industriale di simili proporzioni, viene naturale chiedersi quali saranno le conseguenze per i paesi che ne saranno toccati. Quindi un punto interrogativo anche su questo. Sissi Bellomo spiega. Un'altra tessera, sempre sul Sole 24 Ore, pagina 3, ha trovato posto nel grande puzzle dell'acciaio europeo. L'indiana Tata Steel e la tedesca ThyssenKrupp si sono accordate per costituire una joint venture paritaria in cui conferiranno le attività siderurgiche del vecchio continente. Allora, questo se volete sapere dell'acciaio. E ma c'è anche il cemento, sono i materiali pesanti, sono le materie prime dell'edilizia. I tedeschi mettono le mani, sto leggendo da Libero Economia, sul Libero, a pagina 19, i tedeschi mettono le mani sul cemento made in Italy. Sandro Iacometti, firma economica di Libero, ci spiega. Heidelberg raddoppia e si mangia quasi tutto il cemento italiano, chiudendo di fatto l'epoca della supremazia nel settore delle grandi dinastie italiane. Dopo Italcementi, la Heidelberg rileva Cementir da Caltagirone per 315 milioni, così arriverà a controllare il 40% del nostro mercato. Ma poi, sempre alla voce Money, sentiamo un acuto dei Pink Floyd. Battuta meravigliosa di Carli, una vignetta. Mi tocca raccontarvele le vignette sulla Verità, pagina 4. Salvate il soldato Ryanair, stupendo. E per chi vuole sentire un'invettiva su Ryanair e quello che rappresenta, le colpe di Ryanair, frutto dell'economia del mordi e fuggi, è il fondo di Gianluigi Paragone sul Libero, parte dalla prima pagina, gira dentro, però l'attacco è questo: coraggio liberisti, buttate giù le carte, canta in Cyrano de Bergerac Francesco Guccini, ed è l'invito a tutti i bardi del libero mercato, quelli che ci raccontavano la favola dell'elocosto come miracolo europeo, come la gara perfetta nelle Olimpiadi mercatiste. Si può viaggiare per il mondo a basso costo, si può conoscere e esplorare, scrive Paragone sarcastico, e giù con tutta una filippica sulla conoscenza. Ecco, Ryanair è l'esempio che vale per tutti, è il paradigma di questo sistema gangbang dove il neoliberismo svela il suo massimo desiderio: comprimere i diritti. Allora, colpo di scena nella campagna elettorale tedesca: le sinistre sono dormienti e vengono date per battute, l'effervescenza è a destra. Pensate, c'è stato un coming out. Un coming out clamoroso: la candidata dell'ultradestra Alice Weigel. Ho pensato anche, per rimanere così al passo coi tempi, di fare un elenco delle 10 cose che mi piacciono e delle 10 che non mi piacciono. Le cose che mi piacciono sono le ciliegie, il sushi, i libri, il rumore della pioggia, il cazzo, Londra, D&D, le stelle, i murales, gli indovinelli. Le cose invece che non mi piacciono sono il caldo, le scale, la febbre, i formaggi stagionati, la figa, Charizard, lo spam, il calcio, poi che altro c'è? Le ingiustizie e... ah sì, vabbè, i marsupi. Questo era il coming out di Guglielmo Scilla pochi giorni fa, un famoso youtuber, rapper, non so come dire, italiano, ma ora disc jockey. Ma adesso arriva questa notizia, prima pagina di Repubblica, Alice Weidel svela il suo segreto, Tony Amastrobuoni, il colpo di scena arriva verso la fine, non sono nell'AFD nonostante la mia sessualità, ma ci sono proprio perché sono omosessuale, ci sono proprio perché sono omosessuale, lo ripete due volte, poi il mento le trema, gli occhi che le diventano lucidi sono come un segnale nella sala, i 300 che sono venuti a sentire Alice scattano in piedi e cominciano freneticamente ad applaudirla, ai giornalisti in sala resta la penna sospesa a mezz'aria. Tony Amastrobuoni su Repubblica, bello questo pezzo. Poco prima era ancora una gag, vi voglio dire una cosa, sono omosessuale, nessuno se ne va, ma poi la commozione ha preso il sopravvento. Per il suo ultimo comizio, prima delle elezioni domenica, Weidel ha preparato uno scoop. Qui, nel profondissimo ovest, nella zona industriale dell'Assia, dove si affaccia sull'Ovenwald, dove i partiti tradizionali sono ancora nelle rocce e i verdi nell'archeologia della politica, all'FD è riuscito il colpaccio. E perché dice sono di destra perché sono gay e sono gay perché sono di destra? Perché ovviamente la Weidel coglie il problema dell'intolleranza contro i diversi e dice gli islamici, l'islam violento che noi combattiamo ce l'ha contro la diversità e quindi è perfettamente normale che io non sia di sinistra ma di destra. Leggetevi Tony Amastrobuoni se volete, ma torniamo ai nostri politici. Umberto Bossi è lì con un piede sull'uscio, dentro o fuori la Lega, pronto ad andare con l'ex nemico Berlusconi. È bello il circolo in cui tutto accade, il circolo della politica. Non uccidete l'anima del nostro Nord, il dibattito sul Libero. Renato Farina merita di essere consultato soltanto e basta, dice Vittorio Feltri. Due editoriali, se volete, come dire, avere due pareri opposti sul futuro di Bossi. E invece su Di Maio c'è una cosa interessante sul giornale. Mi devo allontanare. Eccolo. Ho preso il giornale senza neanche frusciare. La squadra di governo. È una cosa interessante il pezzo di Paolo Bracalini che racconta i primi nomi della squadra che Di Maio ha detto che vorrà presentare. Marcello Minenna, ve lo ricordate, siluato a Roma, bocconiano, ex assessore della Raggi, eccolo, torna e potrebbe essere in squadra ministro dell'economia. Giustizia, Alfonso Bonafede, braccio destro di Di Maio alla Camera. Welfare, Domenico De Masi, sto leggendo Bracalini sul giornale, il consulente preferito dei grillini sul tema, e al Viminale Nino Di Matteo, papabile per la poltrona di ministro dell'interno. Veramente interessante, eh? Stiamo correndo nella giungla. Una polemica sul giornale, Luigi Mascheroni, detto Gigi, se la prende con il Corriere della Sera per una recensione, dice lui, troppo elegiaca al libro di Franceschini. Gli echi di Fellini, le atmosfere di Olmi, il tocco di Lelouch, dobbiamo confessarlo e far ammenta. Svogliando il nuovo libro di Dario Franceschini, la raccolta di racconti di Sadorna, c'erano sfuggite le profonde implicazioni letterarie e i diversi livelli di lettura, la ricchezza di citazioni implicite del testo. Per fortuna ce l'ha svelata il Corriere della Sera recensendo l'ultimo libro del Ministro della Cultura. La conclusione, vado subito alla conclusione, che dice Veltroni, Scalfari, Franceschini, che salutiamo con entusiasmo, se possibile ancora maggiore del Corriere della Sera, questo fortunato incontro del tutto fortuito, forse da Nobel, fra letteratura e politica. È ovviamente una citazione ironica, ma mi aiuta a prendere invece due possibili letterati da Nobel legati alla politica. 24, pagina 24 di Avvenire, la cultura di Avvenire, e c'è scritto che Gramsci è esposto a Cagliari per una mostra con i suoi scritti letterari e pensate, c'è invece una mostra anche su Aldo Moro per Immagine e Memoria oltre il martirio. È la segnalazione che faccio da Avvenire sul pezzo di Alfonso Belardinelli, letterato finissimo. Allora ci fermiamo ancora per il ciaffico. Mattino. È arrivato il momento più bello della rassegna stampa, Luca Telese, 7.46, 04 minuti, perché qualcuno mi dice leggi l'ora, questa è una storia di ladri. di lì bene al mondo uno ce n'è, sempre pronto all'avventura lui è, un tesoro al sicuro non è, se ce li attorno lui. Non volevo questo Lupin, ma quello della generazione precedente, che è la mia, che ha quel suono un po' di ronda francese, meraviglioso, ma Massimo Granellini, da leggere tutto in integrale, prima pagina del Corriere della Sera, il ladro ha sempre ragione. Si riferisce al provvedimento di un giudice che ha bloccato un licenziamento, ma sentite perché, Massimo Granellini. L'assurda pretesa di licenziare un dipendente che ruba ha trovato finalmente un argine nella storica sentenza emessa dalla giudice Ilaria Pozzo del Tribunale di Chieti. Si tratta del caso lacrimevole di un impiegato delle Poste che aveva sottratto quasi 15.000 di euro, 15.000 euro, dalla cassaforte dell'ufficio per devolverli in opere di beneficenza, cioè a se stesso. A tradire gli slanci vitali, racconta Granellini, era stata una sordida intercettazione telefonica, durante la quale il brav'uomo, ferito dalle allusioni malevole dei colleghi, manifestava a un amico la nobile intenzione di ricollocare i bigliettoni nel loro precedente alloggio. Anziché premiare la sua generosità, gli investigatori lo avevano incriminato. Peggio ancora, si erano comportati come i suoi capi, animati da sospetti in scrupoli garantisti, e si erano rifiutati di licenziarlo, limitandosi a sospenderlo e a trasferirlo di sede in attesa della sentenza. Solo a quel punto si erano degnati di mandarlo via, ma è stata proprio questa loro bizzarra timidezza a tradirli. La giudice del lavoro, scrive Granellini, ha sancito che il licenziamento, per essere valido, andava sfornato a caldo come un omelette. Averlo cacciato soltanto in seguito a una sentenza di condanna è stata un'infamia ai danni del povero ladro, che adesso potrà tornare alla sua cassaforte preferita e pretendere anche il pagamento degli stipendi arretrati. Una decisione, conclude Granellini, che lascia francamente esterrefatti. Nella partita del diritto e dei diritti ci saremmo quantomeno aspettati il licenziamento in tronco degli altri impiegati onesti e la nomina del ladro a capo ufficio. Fantastico, andiamo alla mitragliata. Continua la causa sul Giornale a pagina 14, è una guerra tipo le guerre puniche fra Veronica Lario e Silvio Berlusconi, e nell'ennesimo ricorso ci sono in palio 1.4 milioni di euro al mese. Sul Libero, la nave a luci rosse dell'Orto, meraviglioso pezzo che racconta di questa nave da crociera che imperversa da giorni. C'è una sola regola: si può fare sesso con chiunque tranne che con i marinai. La nuova moda di Gucci, Messaggero, a pagina 23. Voi lo sapete che si ferma l'Italia quando arrivano le nuove collezioni di Alessandro. Alessandro è il capo degli stilisti di Gucci, ma è come Alessandro Magno. Dice: sono un demiurgo, sono un istigatore alla moda non omologata, lascio che tutto sedimenti. E pensate che quest'anno la nuova moda Gucci ha copricapi faraonici, elmetti e soprattutto tutto elegantissime e costosissime ciabatte. Patrizia Floderer sulla Verità ci informa con un pezzo incredibile che è iniziata una nuova battaglia di civiltà in Europa. Quella, fermi tutti, state lì nei bagni, negli uffici, nelle case, quella contro la sharia sui cani. Benedetta Arese Lucini sulla Stampa, ex capa manager di Uber, si è messa a scrivere, racconta storie di imprenditori e oggi racconta la storia di quelli che hanno avuto in Italia una grande idea: inventare la scarpa che riscalda. Guerra di cartellini alla Camera. Il provvedimento di Laura Boldrini, sto leggendo dal Giornale, a pagina 7, ha fatto arrabbiare alcuni dei dipendenti della Camera. Sì, perché la Boldrini ha creato un nuovo nomenclatore con delle nuove professioni che vanno sul cartellino e nella contabilità di Montecitorio, come il gender mainstreaming, il diversity manager. Che cosa sono? Non tutti l'hanno capito, ma la rivolta dei dipendenti è esplosa perché l'addizione posizione segretario d'aula, che faceva molto importante, è stato tradotto in segretaria, e non vogliono questo nome neanche le donne. Marco Valsania, pagina 11 del Sole 24 Ore, una bellissima pagina sullo sviluppo di Amazon, un pezzo di apertura che spiega cosa ci riserva il futuro, ma la cosa più bella è il nuovo deposito volante. Stiamo tornando alle mongolfiere, all'Ottocento, alla visione delle città future. Sarà un deposito volante che permetterà di risparmiare sui tempi, una grande mongolfiera con sopra le merci che poi vengono portate con il drone. Ma il pezzo più bello, il pezzo che merita l'Oscar, che accende il nostro desiderio e ci fa pensare al futuro, beh, questo pezzo lo scrive Carlo Piano sulla Verità, ed è la storia di nuove occupazioni. Sapete quando fanno quei pezzi e dicono ai ragazzi, vedi che si trovano dei lavori? Bene, il lavoro è servito. In Cina assunti 1500 maggiordomi italiani. E avanzano le donne. La figura professionale del maggiordomo è sempre più richiesta in hotel di lusso e navi da crociera. Il gentil sesso imbattibile nel bon ton e nell'accoglienza. Ma la cosa bella che ci scrive Carlo Piano è di quanto vengono pagati questi maggiordomi italiani. Questo è solo l'inizio, perché secondo quanto dicono gli esperti, la paga in Cina per i lavoratori stranieri può arrivare fino a 12.000 euro al mese netti. Abbiamo sbagliato mestiere nella vita, maggiordomi tutti! E naturalmente voglio che i miei adorati gatti siano sempre trattati bene, e certamente nessuno lo può far meglio del mio fedele maggiordomo Edgar. Edgar? Ma direi che vuoi dire che vuoi lasciare tutto il tuo cospicuo patrimonio a Edgar? Tutto ciò che possiedi, azioni, obbligazioni, questa casa, la tua villa in campagna, i tesori d'arte, i gioielli? No, no, George, no a Edgar, ai miei gatti. Ai tuoi gatti? Ai gatti? E questo era il maggiordomo della nostra infanzia, della nostra storia, della nostra memoria, il maggiordomo Edgar degli Aristogatti. Allora, una grande giornata che continua fra poco con gli ospiti della parte istituzionale e con un ruggito del gattone che dovrebbe essere già qui alle mie spalle, Oscar Giannino. Miau!